GR24, il sole 24 ore. Consiglio regionale del Lazio, si vota sui tagli, Polverini probabilmente non si dimette. Confindustria spazi su un accordo per la produttività entro il 18 di ottobre. Ilva torna alla protesta degli operai, imminente il fermo di alcuni impianti. Caos nel Milan, si insultano Allegri e Inzaghi, l'ex attaccante papabile per allenare la squadra. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. In apertura dunque il Lazio Gate. È in corso il Consiglio regionale, al termine del quale probabilmente si conoscerà la decisione della Presidente Renata Polverini su sue eventuali dimissioni, anche se queste non sembrano alle viste. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, è al via il Consiglio regionale del Lazio, ma Renata Polverini è assente, il governatore della regione si trova all'inaugurazione del nuovo reparto di geriatria dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma e ha detto di aver ricevuto il sostegno da parte del leader PDL Silvio Berlusconi e non ha ancora sciolto la riserva sulle sue dimissioni, malgrado il pressing del Cavalieri a non dimettersi. Però c'è un'ultima ora, il ministro degli interni Anna Maria Cancellieri ha detto che la Polverini le ha chiesto informazioni riguardo ai dati tecnici di quelli che sono le procedure da seguire nel caso che avrebbe deciso di mettersi, quindi insomma c'è questa novità. Ricordiamo poi quanto dichiarato a Piazza Pulita ieri proprio da Renata Polverini: all'ordine del giorno c'è il provvedimento sui tagli alle spese, ovvero il dimezzamento del numero delle commissioni consigliari permanenti, una spending review chiesta dalla Polverini che potrebbe impedire le sue dimissioni. Ufficializzato in Consiglio regionale del Lazio il nome del nuovo capogruppo PD è Chiara Colosimo che sostituisce Francesco Battistoni che ha lasciato ieri. Battistoni era in carica dopo le dimissioni del 24 luglio scorso di Franco Fiorito e intanto riguardo a Fiorito c'è stato un vertice stamattina in procura a Roma tra PM e Guardia di Finanza. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Noi adesso in una giornata nella quale il Presidente del Consiglio Mario Monti sta incontrando a Roma una serie di leader europei, di paesi del sud Europa. Questa mattina ha incontrato il Presidente del Consiglio greco, il Premier greco Samaras, e sta incontrando in questi minuti quello spagnolo Mariano Rajoy. Noi andiamo a dare un'occhiata a come stanno andando i mercati. Ci colleghiamo con Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno ancora a te e agli ascoltatori. Come dicevi, i mercati oggi stanno andando positivamente. FTSE MIB più 0,41%, FTSE All Share più 0,50%. Anche in Europa l'andamento è positivo. Francoforte intorno alla parità in questo istante, ma la mattinata è stata in rialzo, ora è più 0,08. Parigi ha ripiegato proprio in questo istante. Però, insomma, è stata positiva tutta la mattina. In realtà quello che ha pesato di più sono state le dichiarazioni del direttore generale dell'FMI Christine Lagarde riguardo a un minor bisogno delle banche spagnole di aiuti, un aiuto minore del previsto, si prevedevano 100 miliardi di euro. Per quanto riguarda i titoli a Piazza Affari, nel paniere principale la migliore resta Monte dei Paschi di Siena con un rialzo del 2,17%, segue Telecom Italia più 1,64%, Mediobanca più 1,37%, va bene un po' tutto il comparto bancario. Eni guadagna lo 0,67% in questo istante, Enel meno 0,07% e Fiat ha girato in negativo da poco a meno 0,84%. La peggiore è Steam Microelectronics meno 1,32%, Tenaris meno 1,24%. L'euro sul dollaro è quotato 1,3004 in questo istante ed è tutto. Grazie dunque a Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti. Si diceva giro di incontri europei per il Presidente del Consiglio Mario Monti, incontri europei che si stanno svolgendo a Roma. Dunque ci colleghiamo col collega del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Riprende molto intensa l'attività del Presidente del Consiglio sul fronte della crisi dell'Eurozona. Oggi è la volta del primo ministro greco, Antonis Samaras, che è venuto a Roma, così come del premier irlandese, Enda Kenny. con tutti e due ovviamente al centro i temi della crisi dell'Eurozona. Grande soddisfazione per la decisione della BCE di fare tutto il possibile per salvare la zona dell'euro e soprattutto anche giudizio positivo sulla Corte Costituzionale tedesca che ha dato il via libera all'ASM. Per quanto riguarda Samaras, il premier greco ha detto che l'incontro che c'è stato è servito per ridare una prospettiva sul fattore della indispensabilità dell'Eurozona e dell'euro. Le riforme che la Grecia sta portando avanti, Monti le ha apprezzate e ovviamente c'è necessità comunque di andare avanti molto bene. Non si è parlato naturalmente della prospettiva dell'uscita dall'euro. Grazie dunque a Gerardo Pelosi, che poi si aggiornerà nel corso di questa giornata, come si diceva, piuttosto intensa. Noi restiamo sui temi economici, perché dopo l'incontro di ieri sera tra Giorgio Squinzi e Susanna Camusso parlano i leader di Confindustria e CGIL, e Squinzi commenta anche le parole di ieri del Presidente del Consiglio, più che altro le cifre diffuse sulla crescita. L'anno prossimo non sarà l'anno della ripartenza, sarà ancora un anno di riflessione. La speranza è che la situazione non vada anche a peggiorare. Così Giorgio Squinzi commenta oggi le stime sul PIL italiano riviste al ribasso anche dal governo. Il presidente di Confindustria si mostra dunque meno ottimista di Monti, che ieri aveva parlato del 2013 come l'anno della ripresa, ma invita comunque ad avere fiducia e a mettercela tutta. Squinzi fa poi sapere che fra imprese e sindacati ci sono gli spazi per poter arrivare ad una posizione comune sulla questione della produttività. Il numero uno degli industriali ne ha parlato ieri anche con la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso. Squinzi conferma che si lavora per trovare un'intesa in tempi stretti, come chiesto da Monti, che il 18 ottobre sarà in Europa a presentare il piano di quello che intende fare nei prossimi mesi. Più cauto è invece il commento della numero uno della CGIL, secondo la quale quello di ieri è stato un incontro interlocutorio e si continua a lavorare. Camusso oggi ha parlato anche dell'incontro in programma domani fra governo e vertici Fiat. Il suo auspicio è che l'esecutivo chieda a Lingotto la verità sui suoi piani industriali e sulla sua permanenza in Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il quadro politico dunque si compone da una parte delle questioni economiche e dall'altra della vicenda del Lazio. Il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Il paradosso non potrebbe essere più stridente. Da un lato il Presidente del Consiglio che annuncia le cifre dell'economia reale e si aggrappa al filo di una debole ripresa che prenderà forma, nella speranza di tutti, solo nel 2013 inoltrato, e per ora c'è da soffrire e l'obiettivo massimo è quello di evitare il nuovo aumento dell'IVA. Dall'altro lato il vaso di Pandora della regione Lazio, da cui emergono ogni giorno nuovi dettagli sconcertanti naturalmente. Ieri ha parlato Fiorito, l'esponente del PDL intorno al quale è scoppiato lo scandalo, e ha detto una cosa tremenda, ma forse persino vera: non paragonatemi a Lusi e a Belsito, perché io gestivo sì somme enormi e vergognose, parole sue, ma nel rispetto della legge. È una linea difensiva, certo, ma tutti avvertiamo che c'è una sostanza in queste parole, perché è il sistema che permette questi incredibili sperperi. Il fiume di denaro è a disposizione di tutti senza controlli. Ecco il marcio ed ecco il paradosso perverso in cui soffoca l'Italia. Notizia appena battuta dalle agenzie, con questo andiamo all'estero. Uno scontro a fuoco è avvenuto al confine fra Israele e il Sinai egiziano. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle vittime. Tutto questo in una giornata che è la giornata del venerdì di preghiera per il mondo islamico, e la tensione che si accumula dopo le nuove vignette pubblicate da un giornale satirico francese, Charlie Hebdo. In diretta facciamo il punto su questa giornata con Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno, sì, la mattina possiamo dire finora è andata tranquillamente, ma determinante sarà il pomeriggio dopo la preghiera islamica delle 3 del pomeriggio in Italia. In Tunisia comunque sono state vietate le manifestazioni o gli assembramenti, a Tunisi è stato anche bloccato il traffico nelle principali arterie della città, cosa che non era accaduta nemmeno nei giorni della rivoluzione. In Pakistan oggi sono sospesi i servizi di telefonia in 15 città, telefonia mobile, cordoni massicci ovviamente intorno alle sedi diplomatiche americane e anche francesi che sono chiuse per questa giornata in Indonesia per precauzione. Cosa accade in Europa? La Francia ovviamente è il paese più in allerta, una manifestazione è stata vietata alla Grande Moschea di Parigi, severe misure di sicurezza sono state disposte in città, tensione anche a Marsiglia e poi si scalda anche la Germania. Migliaia di musulmani che risiedono nel paese manifesteranno nei prossimi giorni, in particolare contro la diffusione del film L'innocenza dei musulmani, che ha scatenato tutta questa reazione in uno spazio privato a Berlino, e poi anche contro la pubblicazione delle vignette satiriche che una rivista tedesca potrebbe presto pubblicare. In Italia cosa accade? Per il momento fortunatamente nulla, tra poco ne parleremo in Italia in controluce. E grazie Laura, dunque a tra poco. Prima di chiudere questa prima parte del giornale radio, poi ci ritroveremo dopo la viabilità, facciamo il punto sulla situazione all'Ilva, perché ripartono le proteste dopo la decisione dei custodi in attesa di quella della procura sullo spegnimento degli stabilimenti. In diretta a Taranto Domenico Palmiotti, buongiorno Domenico. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è una giornata tesa all'Ilva di Taranto, gli operai dell'Alto Forno 1, che è il primo a doversi fermare su ordine dei custodi, stanno manifestando all'esterno della direzione del siderurgico perché temono per il loro posto di lavoro. Dopo aver bocciato il piano da 400 milioni proposto dall'azienda per il risanamento degli impianti, i custodi hanno ricordato all'Ilva che gli impianti vanno necessariamente fermati per bloccare l'inquinamento, e questa operazione di fermo deve appunto cominciare dall'Alto Forno 1 e dalle batterie 4 e 5. Benché l'Ilva abbia smentito poco fa le notizie fatte circolare dagli operai relative ad un blocco immediato di acqua ed elettricità degli impianti sequestrati, nel siderurgico c'è comunque fibrillazione in attesa degli sviluppi e si va diffondendo la consapevolezza che in assenza di fatti nuovi gli impianti saranno appunto progressivamente fermati. E intanto replica duramente il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante al segretario della FIAM CGL di Taranto Donato Stefanelli, il quale ha dichiarato che dietro le proteste di oggi c'è la pressione dell'azienda. Sono accuse irricevibili e infondate, dice Ferrante, e sono sorpreso per un utilizzo di parole così gravi data la delicatezza della situazione che stiamo vivendo. Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto dell'autorità giudiziaria e delle sue decisioni. Ferrante quindi difende il piano da 400 milioni che la procura ha bocciato. L'Ilva scopra le carte e dica cosa vuol fare davvero a Taranto, controbatte la FIOM. Infine Marco Bentivogli, segretario generale della FIM CISL, dice da Taranto, dove è in corso un'assemblea sindacale: non si può far pagare il conto ai lavoratori. La procura consente all'Ilva una produzione minima perché è compatibile col risanamento degli impianti. Grazie Domenico Palmiotti. Adesso, come si diceva, sentiamo cosa succede su strade e autostrade. Ci ritroviamo subito dopo e parleremo in apertura di una maxi operazione che ha portato in carcere una banda che effettuava rapine ai portavalori. Da IBM buone notizie per le piccole e medie imprese. Il business cresce? I carichi di lavoro diventano più complessi? La soluzione è il server IBM System X 3650 M4 Express con processore Intel Xeon di ultima generazione. Prestazioni eccezionali, estrema flessibilità e scalabilità nel tempo e un prezzo ultra vantaggioso, a partire da 1570 euro. Un'opportunità da non perdere. Per saperne di più, ibm.com/radio/IT. Mi scusi, qual è stata la cosa peggiore della sua infanzia? È forse il fatto che ero giovane. Tutto quello che avreste voluto sapere su Woody Allen? La mia posizione nei confronti della morte non è cambiata. Sono fortemente contrario. E che non avete mai osato chiedere. Woody, un film di Robert Wide, dal 21 settembre al cinema. Il concorso secondo Estate. Compra Estate. E per i suoi 40 anni puoi vincere una scorta per un anno, ovvero 864 bicchierini pieni di gusto. Regolamento su estate.it, scade il 31/12. E da bere, Estate. Ah, l'oceano, che emozione! Ma siamo sicuri che per risparmiare fino al 50% sui prezzi di voce e internet, fisso o mobile, bisogna attraversare l'oceano? Ehi là! Uomo in mare! No, uomo dal braccio rosso. Salva gente, offre la casa. Se scegli Impresa Semplice per il tuo lavoro, puoi risparmiare fino al 50% su voce e internet, fisso o mobile, per 6 mesi. Capitani, prua verso terra! La promozione è valida fino al 31 dicembre. Impresa Semplice di Telecom Italia, il braccio destro che fa per me. Per info e condizioni dell'offerta in promozione, vai su impresasemplice.it. Quando sei in alto, hai la sensazione di dominare tutto e ti senti padrone del mondo. Ma cos'è stare in alto se non ti senti sicuro? Subaru XV, il crossover con la guida alta, ma incollato alla strada. Grazie a motore boxer, baricentro ribassato e trazione simmetrica AVD. Disponibile in versione diesel, benzina e B-Fuel. Subaru XV, guardare il mondo dall'alto e sentirsi sicuri. Scegli Subaru XV Diesel con equipaggiamento trend. Fino al 30 settembre, 3.000 euro di vantaggi negli showroom che aderiscono. Ingredienti nutraceutici per la salute, per l'industria alimentare e delle bevande. Le aziende leader ti aspettano dal 25 al 27 settembre alle fiere NUCE e Fooding International, dove troverai anche conferenze e workshop. A Fiera Milano City dal 25 al 27 settembre. NUCE.pro, Fooding.pro. Strade in diretta. Sono 22 del Brennero, ci sono 4 km di coda per lavori tra Pegognaga e Mantova Sud verso il Brennero, lavori anche sul raccordo Salerno-Avellino, il traffico è rallentato tra Fisciano, Mercato San Severino e Montoro in direzione Avellino. Infine sulla 9 a Chiasso ci sono circa 2 km di coda per l'attraversamento in dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora. In primo piano il Consiglio regionale del Lazio, si vota su Italia, in corso il Consiglio regionale, Polverini a quanto pare non si dimetterà. Ci sono anche questioni economiche che restano appunto in primo piano, parla il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che dice che ci sono spazi sull'accordo per la produttività entro il 18 di ottobre. Questioni industriali, l'Ilva torna alla protesta degli operai, sarebbe imminente il fermo di alcuni impianti. E poi il calcio, con il caos nel Milan, si insultano Allegri e Inzaghi con l'ex attaccante che sarebbe papabile per allenare la squadra, ne parleremo tra poco. Ma prima parliamo dello smantellamento di una banda che assaltava furgoni portavalori. Le indagini hanno messo in luce una struttura organizzativa basata su diversi sodalizi malavitosi, a farne parte in maggioranza pregiudicati originari di Cerignola ed Andria. Il gruppo operava sul territorio nazionale utilizzando tecniche paramilitari con uso di armi e materiale esplosivo per assaltare e derubare i furgoni portavalori e diversi autotrasportatori. 164 le persone finite in manette, 177 quelle denunciate a piede libero. L'indagine, avviata nel settembre del 2011, ha consentito anche di sequestrare un vero e proprio arsenale, composto da 12 pistole, 2 fucili, un mitragliatore Kalashnikov, 750 kg di polvere pirica, 800 munizioni di vario calibro. A luglio era stato varato un piano regionale antirapine proprio per arginare il dilagare di un fenomeno sempre più frequente sulle strade pugliesi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'operazione della Guardia di Finanza, di questo parliamo adesso, è stato scoperto un falso cieco a Gaggiolo nel Varesotto e 13 assenteisti dipendenti del Garante per i diritti dei detenuti di Palermo. Nel caso del falso cieco si tratta di un uomo italiano che a partire da quando aveva 45 anni ha percepito senza averne diritto una pensione di invalidità. Naturalmente vedeva benissimo e conduceva una vita normale. I particolari, la comandante della Guardia di Finanza di Gaggiolo, Leonardo Milone. Percepiva sui 900 euro al mese. In questi anni ha fatto un danno all'erario di circa 80.000 euro e ad oggi, diciamo, la pensione gli è stata sospesa. Lui, pur non avendo mai dichiarato alcun reddito durante la sua vita, comunque ha comprato 2 appartamenti e quindi saranno garantiti, diciamo, il danno all'erario è garantito attraverso le sue proprietà. Questo caso fa parte di una più vasta indagine che approfondirà anche su eventuali agevolazioni che qualche medico, qualcuno dà. Domenica pomeriggio in Piazza Castello a Torino la manifestazione Verità e Giustizia per Alberto Musi, promossa dal Consiglio Comunale per dimostrare la volontà di essere vicini alla moglie Angelica e a tutta la famiglia del consigliere e coinvolgere la cittadinanza. Musi, lo ricordiamo, a 6 mesi dall'agguato nel quale uno sconosciuto gli sparò sotto casa, non ha mai ripreso conoscenza. Il primo a dare notizia dell'attentato fu il deputato Gianni Vernetti del gruppo Misto e amico di Musi. Sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Mi sembra molto molto positivo il fatto che il Consiglio Comunale abbia deciso di non far dimenticare il tragico attentato al consigliere comunale Alberto Musi. È un modo per far ricordare che questa è una città che non si rassegna, è una città che vuole verità, vuole giustizia. E quindi io parteciperò naturalmente, mi sembra però un'ottima iniziativa che ha preso il Consiglio Comunale questa di far incontrare i cittadini per non far dimenticare questo episodio. Purtroppo adesso è ancora in ospedale, in una condizione difficile. Io però credo che la scienza medica su questo tema purtroppo non dà certezze, ma io credo che si possa ancora sperare. Non si sa veramente ancora che pesci pigliare per quanto riguarda il possibile colpevole. Sì, questa è una, diciamo, una tragedia nella tragedia, perché il fatto che ancora ci sia un assassino in libera circolazione, il tentato di uccidere una persona mite, un professionista specchiato come Alberto, è veramente una tragedia nella tragedia, il fatto che non ci sia stata ancora giustizia. Però, diciamo, la squadra investigativa è fatta di persone competenti, estremamente professionali, stanno lavorando, lavoreranno ancora. Questa è la cosa da fare, continuare incessantemente a lavorare per la ricerca della verità. La Commissione europea ha dato oggi il via libera all'acquisizione da parte di Universal Music della EMI. La luce verde di Bruxelles è stata vincolata rispetto di alcune condizioni, prima tra tutte la cessione dell'etichetta Parlophone e le altre attività detenute finora appunto da EMI. Lo ha reso noto la stessa Commissione. Il lancio del nuovo iPhone 5, come prevedibile, ha fatto il pienone a Tokyo, nell'Asia, nei luoghi dove è uscito, in Australia. Decine di persone si sono incolonnate, come ormai sempre avviene, davanti ai negozi autorizzati o ai negozi della stessa casa di Cupertino già prima degli orari di apertura. Nel frattempo ci sono problemi per il nuovo sistema operativo iOS 6, a partire dal sistema di mappe nuove di Zecca, che è nuovo di Zecca. Mancano alcune cose. A Londra, per esempio, manca la stazione di Paddington, che è quella da dove partono i collegamenti con l'aeroporto di Heathrow. E sempre in Inghilterra è scomparsa Stratford-upon-Avon, città natale di William Shakespeare. Il calcio adesso con il caos nel Milan. Il litigio è clamoroso, soprattutto al Milan, dove in genere tutto viene sopito dal silenziatore di Adriano Galliani. Ma questa volta lo scontro è troppo plateale, per giunta davanti a un gruppo di ragazzi. La storia ormai la sapete, anche se qualche dettaglio è discordante. In sostanza, tra Massimiliano Allegri, allenatore dalla panchina traballante, Pippo Inzaghi, ex senatore rossonero, ora tecnico degli allievi, c'è stato un violento litigio. La location è il centro Vismara, dove i due, che mai si sono amati, si sono mandati a quel paese. «Mi vuoi rubare il Milan?», avrebbe detto Allegri, tra uno spintone e l'altro, ad Inzaghi, candidato, secondo il tantam, a prendere il suo posto. Poi tutto è rientrato, con le solite toppe che sono peggiori del buco. Questo scontro, in realtà, è l'ultimo allarme di una situazione sempre più ingovernabile. Mandarsi a quel paese in un campo di calcio, che non è un seminario di filosofia, è sempre successo, ma qui siamo alla fine di un ciclo, senza la speranza di una ripartenza. Fischi, stadio vuoto, sconfitta a ripetizione, un modesto 0-0 con l'Anderlecht, venduti i gioielli, non c'è uno straccio di progetto. Berlusconi tace, ma la pazienza dei tifosi sta per finire. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriverà nelle librerie a Natale il terzo volume del Gesù di Nazareth, che Benedetto XVI ha scritto sui Vangeli dell'infanzia. Oltre all'edizione italiana è immediatamente prevista quella in tedesco. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Carmelo Lauricella. Il prossimo giornale radio è alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Si chiamano Alessia Reato e Giulia Calcaterra, una è aquilana, l'altra milanese, e sono le nuove veline pronte ad affiancare Ezio Greggio nella nuova stagione di Striscia la Notizia. Lunedì l'esordio per la nuova stagione del TG satirico, che viene presentata oggi negli studi di Milano 2. E ieri sera la finale di Veline ha ottenuto il 24,74% di share, con oltre 7 milioni di telespettatori. In prime time ascolti più frammentati per le generaliste. Il commissario Nardone su Rai 1, 15,85% e 18,92% nel secondo episodio. Oltre il 16% per Teo Mamuccari su Canale 5, 10% per la partita di Europa League Inter-Rubin Kazan su Italia 1. Male su Rai 2 la seconda puntata di Pechino Express, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, 6,81%. Soddisfazione invece in casa Sky per la prima di X Factor 6, 578.000 spettatori medi, 10.000 tweet con hashtag XF6 con una frequenza di un tweet e mezzo al secondo. Straordinario programma e straordinario risultato di ascolti, davvero contenti qui a Sky, commenta proprio via Twitter il vicepresidente Andrea Scrosati. Intanto continuano i lanci di nuove trasmissioni. Presentata ieri la serie per ragazzi Talent High School, che da lunedì andrà in onda alle 19 su Super, canale 47 del digitale terrestre 625 di Sky. La serie è realizzata dalla Lux Vide, casa di produzione dei Colossal delle ultime stagioni, che ha molto in cantiere per questo nuovo anno. Luca Bernabei ci svela anche un segreto. Adesso la Lux in questo momento sta girando due grandi serie per la Rai, che sono Un passo dal cielo con Terence Hill in Alto Adige, stiamo girando Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, stiamo preparando una cosa culturalmente credo molto importante che è Anna Karenina, stiamo preparando un Romeo e Giulietta per Mediaset, abbiamo appena finito di girare in Tunisia un Mille e una notte, e poi naturalmente stiamo già scrivendo la prossima serie di Don Matteo per il prossimo anno, quindi Terence Hill tornerà a vestire i panni del sacerdote più amato d'Italia, e lo dico, ve lo annuncio a voi, e quindi ci sarà una nona serie di Don Matteo. In chiusura la musica con una curiosità. La mia abitudine incontrollabile sei. Possibile trovarli in Italia, sono ancora e sempre tra i più richiesti nel mondo, ma i ricchi e poveri adesso tornano con un album tra successi e inediti, Perdutamente amore. Siamo stati pigri per tantissimi anni, però adesso abbiamo avuto, abbiamo di nuovo recepito il desiderio e sentito il desiderio di fare qualcosa di nuovo, per cui ci siamo messi lì dopo anni, ci siamo divertiti a fare come si faceva un tempo, cioè ci si diverte a fare le canzoni. Mentre facevamo le canzoni nuove, dicevano sì, bellissime, stupende, ma perché non mettete anche Mamma Maria? E un altro fa, ah ma adesso facciamo anche Sara perché ti amo, perché ci stiamo divertendo, e mettiamo anche Sara perché ti amo. Alla fine ci sono rimaste 4 canzoni nuove e 8 canzoni rifatte, perché comunque anche se sono canzoni datate, ma noi ci divertiamo moltissimo a farle sempre. Ed è tutto per il GR Spettacoli da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.